l'estate stranutiva un po' d'autunno, le nuvole coprivano il tramonto, così mi ritrovai la notte a fianco, mi ritrovai di nuovo solo e stanco. Confesso mi tremava un po' la mano, la prima nota timida suonò, e su una strada che non va lontano ho scritto una canzone per non so. Per chi canta sorridendo a gola tesa, per chi prega ma lontano da una chiesa, per chi crede che la società ti uccide, per chi insieme coi bambini piange e ride, per chi uccide le teorie di re buffoni, per chi fa l'amore piscia nei cordoni. L'estate anticipava un po' d'autunno, le nuvole spogliavano le stelle, così mi ritrovai la luna a fianco, col vento che sfiorava la mia pelle. Così continuai la mia canzone, che tutti sanno e non canta nessuno, la luce le rubavo ad un lampione, una canzone forse per qualcuno. Per chi quando è notte e non si dorme addosso, per chi quando è giorno sceglie i suoi vestiti, per chi quando c'è bisogno salta il fosso, per chi non si fa fregare dai partiti, per chi uccide le teorie di re buffoni, per chi fa l'amore piscia nei portoni. S'affogava nel mattino, il sonno mi segnava un po' la faccia, ripresi la chitarra ed il cammino, e dietro a me non c'era già più traccia.